Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito e Simone Spoladori. Lo spazio. Un sogno di infinito, di assoluto, che da sempre affascina l'uomo stimolando interrogativi, alimentando il desiderio di avventura di ogni essere umano. Fin dall'alba dei tempi, le stelle e la luna hanno incuriosito il genere umano, che ha sognato di raggiungerle, di toccarle, di esplorarle per comprendere il mistero impenetrabile che permea l'universo. Da Galileo Galilei a Jules Verne, occhi e immaginazione della civiltà sono stati spesso puntati sul cosmo. Fino agli anni 50, alla guerra fredda, alla corsa allo spazio di Stati Uniti e Unione Sovietica, una battaglia a colpi di invenzioni che ha trasformato il sogno in realtà. Выведен орбиту спутник впервые проникнуть за пределы земной атмосферы. Quello che sentite in sottofondo è il rumore assordante che produce lo Sputnik 1 il 4 ottobre 1957, al momento del suo decollo. Siamo presso il cosmodromo di Baikonur, nell'odierno Kazakistan. Qui, grazie al vettore R7, il satellite Sputnik, che in russo significa compagno di viaggio, inizia il suo viaggio nello spazio, cambiando per sempre l'era contemporanea. Fino a quel giorno di ottobre del 57, gli Stati Uniti si cullavano nella convinzione di essere, dopo la Seconda Guerra Mondiale, leader assoluti in tutti i settori tecnologici, scientifici e industriali. Con quel lancio, l'orizzonte cambia. Una delle nazioni più devastate dal Secondo Conflitto Mondiale rialza definitivamente la testa e punta il suo sguardo minaccioso verso Occidente. L'Unione Sovietica fornisce una dimostrazione impressionante delle proprie potenzialità tecnologiche, della bravura e dello spessore dei propri scienziati. La palla ora passa agli States, di cui ci si attende una pronta risposta. Alla fine degli anni 50 nasce la National Aeronautics and Space Administration, la NASA. Gli Stati Uniti avviano un programma tecnologico che affonda le proprie radici nel sistema scolastico, che viene riformato dalla base. Circa 4 mesi dopo il lancio dello Sputnik 1, gli Stati Uniti lanciano il loro primo satellite, l'Explorer 1, e il 31 gennaio 1958. Il luogo scelto per i lanci spaziali americani è Cape Canaveral, una striscia di terra nella contea di Brevard, in Florida. Qui sorgono il Kennedy Space Center della NASA e la Cape Canaveral Air Force Station, il fulcro della storia che vi andiamo a raccontare oggi. 11, 10, 9, 8, 7, we are go. È uno dei tanti countdown che presso il cosmodromo di Cape Canaveral hanno preceduto il lancio di qualche satellite, navicella o space shuttle. Da subito gli Stati Uniti, che in fatto di capacità mediatiche non sono secondi a nessuno, hanno sfruttato le capacità spettacolari della corsa allo spazio. Così le evoluzioni scientifiche e tecnologiche sono sempre state accompagnate da imponenti live show e allestimenti televisivi, con tanto di star chiamate a esibirsi prima e dopo il lancio. Esseri viventi a trovare posto dentro a quei pesantissimi mezzi spaziali lanciati nello spazio da americani e russi sono moscerini della frutta lanciati dagli Stati Uniti su dei razzi V2. Il primo animale sovietico, il cane Laika, trova ospitalità sullo Sputnik 2 nel 1957, morendo a causa del surriscaldamento subito dopo aver raggiunto lo spazio. Nel 1960 i cani sovietici Belka e Strelka orbitano attorno alla Terra e ritornano con successo. Il programma spaziale americano importa come risposta degli scimpanzé africani e ne invia almeno 2 nello spazio. Il ritorno degli animali sani e salvi fa capire che è arrivato il momento del primo uomo in orbita. Yuri Gagarin e Alan Shepard sono rispettivamente il primo russo e il primo americano a volare in orbita. Due idoli per generazioni di aspiranti astronauti. Dopo il loro volo, lo spazio sembra non avere più confini. Il progetto Apollo, avviato dagli Stati Uniti, è quello che deve portare l'uomo sulla Luna. Avviato da Kennedy e Lyndon Johnson, dovrebbe portare agli States benefici in termini di immagine e anche dal punto di vista tecnologico. Come noto, il progetto si concretizza il 21 luglio 1969, quando la missione Apollo 11 porta Michael Collins, Buzz Aldrin e Neil Armstrong sul satellite della Terra. Un piccolo passo per un uomo. Un balzo da gigante per l'umanità. Dopo quello straordinario evento, il programma Apollo continua, progettando altri allunaggi. La missione successiva, Apollo 12, atterra sulla Luna il 19 novembre 1969. L'Apollo 13, che dovrebbe essere la terza spedizione a toccare il suolo lunare, decolla l'11 luglio 1970 da Cape Canaveral. E questo l'inizio della storia di incroci di destini che vi andiamo a raccontare oggi. Sono le 19:13 ora di Greenwich. Dal John Fitzgerald Kennedy Space Center di Cape Canaveral è appena decollato il razzo Saturn V, che deve portare nello spazio il modulo di comando Odyssey e il modulo lunare Aquarius. Obiettivo della missione? Installare sulla Luna l'Apollo Lunar Surface Experiment Package, cioè una serie di sistemi, congegni e misuratori per eseguire diversi esperimenti, come misurazioni sismiche o misurazioni del campo magnetico. Una frase passata alla storia. Dopo 55 ore di volo spaziale, a 321.860 km dalla Terra, due serbatoi di ossigeno esplodono, uno dopo l'altro. L'equipaggio non ha ancora raggiunto la Luna, ma l'ossigeno non è più sufficiente per completare l'allunaggio e sembra troppo poco anche per tornare indietro. Ok, Houston, abbiamo avuto un problema. La voce che segnala il dramma alla base della NASA, gettando il mondo intero nell'ansia, è del pilota del modulo lunare Jack Swigert. Jack Swigert, il nostro primo personaggio di oggi. John Leonard Swigert Jr., detto Jack, è all'epoca dell'Apollo 13 un astronauta 38enne che ha avuto una carriera rapida, folgorante e decisamente rocambolesca. Swigert nasce il 30 agosto 1931 a Denver, in Colorado, città nella quale svolge l'intera carriera di studi fino alla laurea in ingegneria meccanica ottenuta all'Università del Colorado nel 1954. Durante gli anni dell'università non mi immaginavo certo a girare nello spazio. Volevo diventare un giocatore di football, come molti ragazzi della mia età. Jack invece entra nell'aeronautica militare e diventa pilota di caccia. Nel 1955 e nel 1956 viene spedito in Corea a combattere una delle più difficili e sanguinose guerre nelle quali si siano mai cacciati gli Stati Uniti. Una volta ottenuto il congedo, Swigert continua la sua carriera nell'aeronautica civile. Dopo la terribile esperienza della Corea, non volevo più saperne di esercito e di armi. Così, per almeno una decina d'anni, ho lavorato per alcune delle più importanti compagnie aeree del paese, come collaudatore e consulente. Poi, nel 1966, è arrivata la svolta. La svolta per Swigert si chiama NASA. Si chiama Programma Apollo. Il pilota presenta domanda per entrare nel programma di conquista della Luna. Dopo un duro addestramento, Swigert centra un record. Diventa il primo astronauta laureato della storia del programma spaziale degli Stati Uniti. Per Jack, naturalmente, il sogno si chiama Luna. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Prassi nella carriera degli astronauti essere destinati al cosiddetto equipaggio di riserva per un certo tempo prima di venire reclutati per l'equipaggio principale. Swigert entra per la prima volta nell'equipaggio di riserva in occasione della missione Apollo 13, una missione fondamentale per il programma di conquista della Luna. La missione Apollo 13 è la nostra prima missione di tipo H. Servirà a dimostrare che siamo in grado di atterrare sulla Luna in un luogo determinato con precisione assoluta e stabilirà altresì che per le missioni NASA esplorare la Luna è ormai come esplorare uno degli impervi deserti del nostro pianeta. La conferenza stampa di presentazione della missione vede l'amministratore della NASA, Thomas Paine, esibire tutto il suo ottimismo. Come pilota del modulo lunare dell'equipaggio di riserva, anche Swigert è presente a quell'evento mediatico, ben contento di esserci, seppure in una posizione marginale. Non sa che il destino ha già deciso di iniziare a scombinare le carte. Pochi giorni dopo, infatti, Swigert viene convocato d'urgenza proprio da Thomas Paine. Mi ricordo che fui chiamato con una tale fretta. Non avevo proprio idea del perché. Mi dissero che dalla mia cartella clinica risultava che io avevo già avuto il morbillo. Mi chiesero conferma e mi preannunciarono una serie di esami. Ciò che è accaduto è che Charles Duke, uno dei membri dell'equipaggio di riserva, si è ammalato di morbillo. Uno degli astronauti titolari, il cui nome ancora non viene rivelato a Swigert, non ha mai avuto tale malattia ed essendo venuto spesso a contatto con il collega durante l'addestramento, è a rischio contagio. Non può volare con questa pesantissima incertezza e quindi va sostituito. Al suo posto andrà Swigert, ormai immune al virus, e sarà il pilota ufficiale del modulo lunare. A questa notizia Swigert è confuso, sorpreso. È il 6 aprile del 1970. Mancano solo 5 giorni al lancio, previsto per la giornata dell'11 aprile. Compagni di viaggio di Swigert saranno Jim Lovell e Fred Hayes. Loro sono gli uomini scelti per camminare sulla Luna per la terza volta nella storia dell'umanità. Loro sono gli uomini che sono seduti accanto a Swigert quando questi, dallo spazio, comunica al mondo il messaggio che lascia il pianeta con il fiato sospeso. Quando Swigert annuncia alla base della NASA che un problema serio ha colpito il modulo di comando, ad ascoltarlo ci sono tecnici e studiosi che capiscono subito che la situazione è grave, anche se non riescono a tratteggiare la reale entità del danno. Nel 1993, un film di grande successo diretto da Ron Howard e interpretato da Tom Hanks e Kevin Bacon ha documentato molto bene queste fasi concitate. Ecco cosa è realmente accaduto. Mentre la navicella si avvicina lentamente alla Luna, il serbatoio dell'ossigeno numero 2 del modulo di servizio esplode e i cavi che collegano il motore al miscelatore peggiorano le cose, creando una fiammata che danneggia diverse parti del modulo di servizio, compreso il serbatoio dell'ossigeno numero 1. Dalla Terra si teme che in realtà i danni riportati dal modulo possano essere molti di più, anche perché lo stesso sistema di rilevamento danni è andato in tilt. A raccogliere il messaggio d'aiuto di Swigert, Jim Krantz, per tutti semplicemente il direttore. Lui, ingegnere cinquantenne del Missouri, è l'uomo d'ordine delle missioni lunari del programma Apollo. Da terra dirige le operazioni e segue infaticabile ogni passo dei voli nello spazio degli astronauti. In quel caso avevo capito subito che ci sarebbe stato bisogno di qualcosa in più per trarre in salvo quegli uomini, di un'esperienza e di una prospettiva differenti. Quello che Kranz capisce subito è che un'arma in più per gli uomini della NASA potrebbe essere la presenza di un pilota nella sala comandi, in grado di dare indicazioni più vicine al punto di vista dei tre uomini nello spazio. Dalla base della NASA parte una telefonata. Destinatario Ken Mattingly, l'astronauta sostituito all'ultimo momento con Swigert a causa del morbillo. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati seguiamo la affascinante vicenda dell'Apollo 13, la missione spaziale che nel 1970 ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Dopo 55 ore di volo a più di 300.000 km dalla Terra, la navicella che ospita tre astronauti, Jack Swigert, Jim Lovell e Fred Hayes, subisce un guasto terribile. Esplodono due serbatoi di ossigeno. L'allunaggio viene accantonato, ma il problema principale diventa come riportare a casa i tre facendo cambiare rotta alla navicella e ottimizzando l'ossigeno rimasto. Uno dei tre astronauti prigionieri nello spazio, Jack Swigert, ci è finito per un singolare incrocio del destino. Non era nell'equipaggio titolare, ma uno dei tre prescelti per il viaggio viene esposto al contagio del morbillo e per non rischiare viene rimpiazzato proprio da Swigert. Ora il destino svela i suoi complessi piani. Proprio l'astronauta lasciato a terra viene richiamato dalla NASA per seguire le operazioni di soccorso e dare un contributo che si rivelerà fondamentale. Quell'uomo si chiama Ken Mattingly. Ken Mattingly. Ken Mattingly è nato a Chicago, nell'Illinois, ma si è trasferito presto vicino a Miami, in Florida, nel 1933, dove ha completato gli studi superiori. Mattingly non si fa risucchiare dalla frenetica vita della più folle delle città americane, anzi si pone subito come un perfetto modello di americano tutto casa e famiglia. Trascorre, ad esempio, l'adolescenza dedicandosi anima e corpo ai Boy Scout. Dressed up as a scout, I used to venture out as the rules and regulations were recited. A scuola eccelle nelle materie scientifiche e così si iscrive alla prestigiosa Edison High School, dove studia duramente per ottenere una laurea in ingegneria aeronautica nel 1958. Subito dopo la laurea, per Mattingly arriva il momento del servizio militare. Ad attenderlo, l'aviazione militare. Ricevere le ali, nel gergo dell'aviazione militare, significa completare il percorso di preparazione che conduce un giovane pilota al primo volo. Per Mattingly, le ali arrivano con grande orgoglio dei genitori nel 1960. Nel 1962 viene assegnato alla squadriglia VA-35, le Pantere Nere, e inizia un'avventura di 2 anni a bordo della mitica USS Saratoga. Pilota duro, serio, determinato. Questo è il profilo di Ken Mattingly, l'uomo che per un banale morbillo nel 1970 non partirà per la Luna a bordo dell'Apollo 13. Stiamo ripercorrendone la storia e le vicende che lo hanno portato a diventare un astronauta. Dopo un onorato servizio come pilota militare a bordo della USS Saratoga, Ken si rimette a studiare presso la scuola piloti del Centro Aerospaziale dell'Aviazione Americana. Nel 1966, essendo il più dotato del suo corso, la NASA lo sceglie. Dopo aver fatto parte dell'equipaggio di riserva dell'Apollo 12, Mattingly è pronto per partire a bordo dell'Apollo 13, ma il destino ha deciso diversamente. Era tutto pronto, tutto deciso. L'addestramento era filato via liscio e senza intoppi. Poi, 3 giorni prima del lancio, ricevetti la telefonata e la comunicazione. Charles Duke, dell'equipaggio di riserva, aveva preso il morbillo Il problema era che io non avevo ancora fatto questa malattia infettiva e così ero a rischio contagio. Ricoprirsi di bolle a 400.000 chilometri dalla Terra non è il massimo. Così decisero di sostituirmi. Fu indubbiamente un duro colpo. La missione Apollo 13 è una missione nata male e proseguita peggio. Il primo segnale negativo è indubbiamente il morbillo di Duke. Poi però si verifica anche un incidente al decollo, un piccolo intoppo che pochi conoscono e che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. 10, 9, 8, ignition sequence has started. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. We have commit and we have liftoff at 2:13. Saturn V building up to 7.6 million pounds of thrust and it has cleared the tower. Mentre Mattingly osserva malinconicamente mescolato agli altri piloti di riserva e ai tecnici NASA il decollo del razzo, si verifica un problema a uno dei 5 motori del vettore che smette di funzionare. I tecnici, guidati dal duro Gene Kranz, aumentano prontamente la potenza degli altri 4 appena in tempo. La traiettoria del vettore riesce a non subire eccessive modifiche e l'allarme rientra, ma la missione nasce con dei sinistri presagi. Una volta in orbita, gli astronauti si dedicano al primo obiettivo della missione, quello di far precipitare il terzo stadio del razzo Saturn sulla Luna, obiettivo nominato Saturn Crash. Poco dopo che il razzo vettore si era staccato, viene riacceso il congegno propulsore per portarlo sulla traiettoria di collisione con la Luna. Tale manovra riesce perfettamente e 3 giorni più tardi lo stadio, con il peso di circa 14 tonnellate, precipita sulla Luna a circa 120 km a nord-ovest del punto di allunaggio dell'Apollo 12, con una velocità di impatto di circa 2,5 km al secondo. Dopo circa 30 secondi, il sismografo posizionato dall'equipaggio dell'Apollo 12 registra l'impatto e il conseguente terremoto lunare dura per oltre 3 ore. E rimane l'unico aspetto di quella missione ad essere andato per il verso giusto. 13, we've got one more item for you when you get a chance. We'd like it to stir up your cryo tank. Sono le voci originali dei 3 uomini sull'Apollo 13. Stanno parlando di una cometa, una visione sublime e magnifica dai finestrini della navicella. Poco dopo, però, il panico. Pronto, pronto, qui Ruggero Orlando. Sono le 23. Qui in America è ancora lunedì 13, da voi è già martedì 14. L'astronauta Jack Swigert comunica dall'Apollo 13. C'è un problema. Se ne va l'energia dell'Apollo. Jim Lovell dice che c'è stata un'esplosione. È l'indimenticabile voce di Ruggero Orlando. Alle prime luci del mattino, ora italiana, Orlando chiama la redazione dell'Europeo e dà la notizia. L'Apollo 13 è in pericolo. Più o meno nelle stesse ore, nella base di Houston, Gene Kranz chiama Mattingly. Abbiamo bisogno di te. Ricevetti questa chiamata a tarda sera. Mi precipitai alla base e avevo percepito che si potesse trattare di qualcosa di veramente grave. Avevano bisogno di un astronauta a terra che potesse aiutare gli uomini nello spazio avendo presente le problematiche concrete che si hanno lassù. Io ero fresco di addestramento, lassù avrei dovuto esserci io. Così ho dato tutto il mio supporto. In altre parole, il destino fa sì che Mattingly abbia comunque un ruolo determinante in quella missione, un ruolo determinante proprio nel salvataggio di Swigert, l'uomo che aveva preso il suo posto. Pronto, pronto qui Orlando, non si va più sulla Luna con l'Apollo 13. C'è chi parla di un meteorite che può avere colpito la bombola dell'ossigeno, c'è chi dice che è assai improbabile invece. Prima dell'esplosione si è notato un rapido aumento di pressione, allora dicono non è un meteorite, i meteoriti non sono mostri spaziali che premono e strangolano una bombola. Lovell ha ricevuto la direttiva di servirsi del motore del veicolo di allunaggio per alzare il pericinzio dell'astronave in viaggio verso la Luna. Il pericinzio, cioè il punto di minima distanza dalla Luna, Cinzia nella mitologia greca, e l'astronave rientri da sé nella traiettoria di ritorno alla Terra. È il veicolo lunare che fa da scialuppa di salvataggio. La voce di Ruggero Orlando ci svela subito qual è l'idea di Mattingly: eseguire un passaggio attorno alla Luna e riprendere la rotta verso la Terra, utilizzando quindi una traiettoria di ritorno libero. Sfruttare, insomma, l'orbita lunare per riguadagnare la direzione della Terra. In questa delicata operazione viene usata la propulsione dei motori del modulo di servizio. Mattingly e Kranz, da terra, non sapendo l'esatta entità del danno, per correggere la traiettoria del rientro, suggeriscono di utilizzare il motore di discesa del modulo lunare. Dopo estenuanti discussioni, gli ingegneri decidono che è fattibile una manovra di quel tipo. Così gli astronauti accendono una prima volta il motore del LEM dopo l'attraversamento della Luna per acquistare velocità e una seconda per una correzione in corsa. Questo desta non poche preoccupazioni, dato che il LEM è progettato per usare il suo motore una volta sola. Reggerà un utilizzo così intenso? Tra poco, a Destini Incrociati. Shadows I would hide. All good people asleep tonight. I'm all by myself. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo l'incontro spaziale delle vite di Jack Swigert e Ken Mattingly, due astronauti che negli anni 60 vengono arruolati per la missione Apollo 13, la terza a puntare sulla Luna. Il primo è nell'equipaggio di riserva, il secondo è il titolare. Poi il morbillo contratto da un collega cambia tutto. Mattingly non l'ha mai avuto, Swigert sì, le parti si invertono. Il titolare diventa riserva e la riserva volerà sulla Luna. Poi però, una volta nello spazio, l'Apollo 13 diventa una prigione dalle ore contate. Esplodono le riserve di ossigeno, l'allunaggio viene cancellato, da terra si deve trovare il modo di tornare indietro. Mattingly assume un ruolo centrale nelle operazioni di salvataggio. Ok, 13, this is Houston. We'd like you to go to your GNC checklist, pink pages 1-5. Do power down until we get a delta of 10 amps, over. Le voci sono quelle di Swigert e Mattingly. Dialogano via radio sul piano di emergenza da attuare. L'idea di Mattingly è semplice quanto disperata. Doppiare la Luna come fosse il capo di una rotta segnata dalla tempesta e fare il ritorno sfruttandone la rotazione. Il problema era che non volevamo usare i motori della navicella principale, in quanto non sapevamo bene cosa avesse originato l'esplosione. La navicella doveva raggiungere la Luna, lasciarsi attrarre dall'orbita del satellite e, completato mezzo giro, usare i motori del modulo lunare per deviare il percorso e puntare verso la Terra. Le parole di Mattingly descrivono il piano di salvataggio adottato e portato avanti da Gene Kranz, capo del team di ingegneri e tecnici che da terra segue il volo dell'Apollo 13. Tutto va liscio fino alla seconda notte dopo l'esplosione. La navicella ha appena passato la Luna e punta verso la Terra. Tutto il mondo ha ripreso a sperare. Poi, improvvisamente, l'Apollo 13 scarta e punta verso l'infinito. Il rischio è quello letteralmente di perdersi, di diventare un terribile e orrendo meteorite umano destinato a vagare per l'eternità per il cosmo. Un rischio che viene nuovamente scongiurato grazie al prezioso supporto che Mattingly fornisce a Kranz. Dopo esserci consultati, consigliamo a Swigert, Lovell e Hayes di usare i motori del modulo lunare a intermittenza per correggere la rotta, nella speranza certo che questi non smettessero di funzionare. Dopodiché decidemmo di simulare quello che stava accadendo nello spazio anche a Houston, nella base, facendo entrare un equipaggio di riserva nel simulatore, per riuscire a formulare previsioni sensate di ciò che stava accadendo lassù. Anche questa volta l'Apollo 13 riprende la rotta verso casa. Anche questa volta Mattingly è stato decisivo. Rimane un ostacolo da superare: l'atterraggio sulla Terra. I tre naufraghi sull'Apollo 13 sono tesi e sfiniti. Ormai a bordo fa freddo e l'aria è praticamente irrespirabile. Alle 14:16 del 17 aprile, la navicella è prossima alla terra. Il modulo di servizio responsabile dell'esplosione viene espulso. I tre possono vedere da fuori quello che era successo. È un rottame, è un macello. La navicella è ridotta a un ammasso di ferraglia con squarci evidenti e inquietanti. Poco dopo, i tre abbandonano anche il modulo lunare che ha salvato loro la vita e si chiudono nella capsula che dovrà atterrare nel mare. Il punto di rientro nell'atmosfera viene scelto in modo da raggiungere un punto dell'Oceano Pacifico in cui si ha una grande profondità. All'ingresso nell'atmosfera terrestre, come da prassi, il silenzio radio, fino all'impatto sulla Terra. Ce la faranno i tre naufraghi a resistere allo stress dell'impatto? Ken Mattingly e gli altri ingegneri della NASA sono in trepidante attesa. Mi sembra di aver capito che fra 10 secondi avremo il silenzio delle comunicazioni radio. Cercheremo di metterci in contatto attraverso uno dei nostri aerei che ci farà da ponte con la navicella, ha detto Houston. Aspettiamo dunque di risentire la voce degli astronauti. Apollo 13 should be out of blackout at this time. We're standing by for any reports of Araya acquisition. Apollo 13 dovrebbe essere uscito in questo momento dalla zona di blackout, di silenzio. Aspettiamo le prime voci. Coming up now in 3 minutes until time of drogue deployment. Standing by for any reports of acquisition. Ecco la voce di Lovell. Come mi senti, Houston? Vi abbiamo visto. Ecco, è la prima comunicazione, è la conferma che gli astronauti stanno bene. È Jim Lovell, il comandante, che ha comunicato a Houston che lui e i suoi compagni stanno bene. Poco dopo, nel cielo sopra l'Oceano Pacifico, appare un'immagine indimenticabile. La capsula procede lenta e sicura verso l'ammaraggio. A Houston esultano, si abbracciano. Ken Mattingly è felice e appagato. Il destino che gli ha impedito di volare nello spazio l'ha voluto in un altro determinante ruolo. Jack Swigert, che ha preso il suo posto in questa incredibile odissea, lo ringrazia commosso via radio. Tutto il mondo tira un sospiro di sollievo. È stato un momento bellissimo, a conclusione di un'esperienza davvero difficile. Tuttavia, ha permesso a scienziati ed ingegneri di rivedere alcuni dettagli per migliorare la sicurezza nello spazio. Infatti, ingegneri e tecnici NASA si sono rimessi subito al lavoro, rifacendo calcoli accurati e dettagliati. Una curiosità: i calcoli li ha fatti accuratamente anche la società che aveva costruito il LEM, il modulo lunare che ha salvato la vita agli astronauti. Alla NASA arriva una fattura di $400,000 per aver salvato un'astronave in panne. Indubbiamente, il carro attrezzi più caro della storia. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.